Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Finalmente è arrivato il nostro momento e per fortuna che ci siete. Andiamo subito a sentire il nostro sommario. Saluto e ringrazio Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Andiamo. Quando il ginocchio fa male, impariamo insieme a prendercene cura per non preoccuparcene in futuro. SOS Afte in Bocca. La saggezza della filosofia. Oggi parliamo delle nostre ginocchia. Da bambini vi ricordate, si andava in bicicletta, si cadeva, le ginocchia erano sbucciate. Bei tempi, perché ci si disinfettava, a volte bastava solo un po' d'acqua, via, faceva un po' male e poi si ritornava in sella. Adesso, da quando siamo cresciuti, la situazione è cambiata un po'. E le nostre ginocchia a volte si lamentano, magari sono proprio piccoli disturbi, ma tant'è che, come si dice, il dente batte dove la lingua batte dove il dente duole, e allora il nostro ginocchio ci preoccupa. Abbiamo pensato che quindi sia meglio affrontare questo tema, quindi tutte le cose, i disturbi strani che capitano alle nostre ginocchia. Ginocchia giovane, ginocchia meno giovane, belle o meno belle, forti o che cedono un po'. Le affidiamo tutte in massa al professor Roberto D'Anchise, che finalmente è tornato a trovarci. Professor D'Anchise, buongiorno. Buongiorno a tutti. Primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore, iniziamo, faremo poi un distinguo forse in base all'età, che anche questo ci dà. Sì, si può dire così. Vero? Io volevo fare una premessa. Diciamo che l'età può avere un significato, però il ginocchio è tra le articolazioni più difficili, perché ha una situazione di equilibrio molto molto molto precario, perché sono due, l'articolazione è formata da due parti che concettualmente non potrebbero stare insieme. Una è piatta e l'altra è tonda, quindi sarebbero assolutamente instabili. Allora madre natura ci ha messo dentro menischi, ci ha messo dentro legamenti per stabilizzarle, il tutto rivestito, come in tutte le articolazioni, da cartilagine, e tutti questi elementi hanno singolarmente la possibilità di avere delle problematiche, fermo anche restando che madre natura ci deve fare perfetti perché il ginocchio lavori bene, perché esistono per esempio il rapporto tra la rotula, che è l'osso che ci sta davanti, e il nostro ginocchio deve essere perfetto, perché deve scorrere nel suo solco e deve essere perfetto questo scorrimento. Se questo scorrimento non è perfetto, nel tempo può dare problemi. Quindi è un'articolazione che, ahimè, a tutte le età può dare i suoi problemi. Un'articolazione fantastica ma molto complicata, molto. E delicata, certo. che se ne dica, certo. Non se ne dica. Che noi pensiamo. Io chiederei ai nostri ascoltatori quindi di pensare al punto in cui avvertono dolore, disturbo, tensione. È giusto, professore? È giusto, e l'altro elemento fondamentale è se il ginocchio si gonfia, perché tutte le volte che c'è un versamento articolare vuol dire che c'è stato qualche cosa di significativo. Può essere anche banale, nel senso che ci può essere un colpo e il ginocchio si gonfia, però il gonfiore deve essere un campanello d'allarme. 800 24 00 24, questo numero verde è utile a chi si ritrova bene o male descritto in questa situazione. Andiamo. Hai notato che il tuo ginocchio quando è stanco si gonfia? Se stai in piedi a lungo, il tuo ginocchio si lamenta? Oppure ti fa male quando stai seduto? Il tuo ginocchio è diventato debole? Non ha più la resistenza di una volta e ogni tanto fa cilecca? Cede? O invece fa i capricci e ogni tanto si blocca? Professor D'Anchise, allora, tante situazioni diverse. Abbiamo sottolineato il gonfiore, abbiamo il dolore, evidentemente, ma quando questo dolore compare? Se è un dolore a riposo, se è un dolore rimanendo seduti, se è un dolore dopo uno sforzo, se è un dolore che persiste dopo un trauma, sono tutti elementi che devono essere presi in considerazione. E uno degli elementi interessanti del ginocchio è che la storia del paziente è fondamentale, la visita è fondamentale, e poi ci sono gli esami, gli accertamenti come la radiografia, come la risonanza magnetica. Però è molto molto importante che il paziente ricordi bene quello che è successo, quali sono stati gli episodi, anche passati. Alle volte quando ci sono delle lesioni legamentose, di solito la più frequente è quella del crociato anteriore, ci può essere un piccolo trauma di molti anni prima dimenticato, che può essere stata la prima causa di questa lesione, e quindi è chiaro che a quel punto non è più una situazione acuta, ma è una situazione cronica, e quindi va impostata in una maniera diversa. Quindi andate anche un po' indietro nel tempo. 800 24 0024, nostro numero verde a vostra disposizione. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso invece dal ginocchio passiamo alla nostra bocca e parliamo di afte dolorosissime. Le avete provate sicuramente, sembrano poi non guarire mai, essere resistenti a qualunque trattamento, tant'è che uno si rassegna un po' e dice tanto prima o poi passeranno. Ma che dolore! In linea con noi abbiamo il professor Silvio Abati, che è professore di malattie odontostomatologiche alla clinica odontoiatrica dell'Università di Milano, ospedale San Paolo. Professore, buongiorno e bentornato anche a lei, come sta? Buongiorno dottoressa e buongiorno a tutti gli ascoltatori, sto bene in questa ripresa del nuovo anno e sono pronto. Professore, anche a lei sarà capitato di avere un'afta, no? Sì, è capitato anche a me. Meno male. Quando ero ragazzo. Un po' di giustizia. Vogliamo allora descriverle bene, perché noi solitamente tendiamo a fare di ogni erba un fascio. Quando abbiamo una lesione in bocca e che ci brucia, pensiamo subito all'afta. Eh sì, è una delle pseudodiagnosi più comuni, ecco. E invece le afte sono una entità abbastanza precisa, sono delle piccole ulcere che fanno parte di una malattia che si chiama stomatite aftosa ricorrente, che come dice il nome tendono a essere, sì, a ricorrere più o meno frequentemente. E la cosa importante iniziale è fare una diagnosi corretta, perché lesioni simili possono far parte, anche in casi naturalmente più rari, di altre situazioni. Allora ci impresta il suo occhio clinico, professore, per, naturalmente non possiamo sostituirci al medico, ma possiamo cercare di capire, se lei ci aiuta magari dandoci qualche segnale, qualche indicazione, se la nostra è un'afta oppure se dobbiamo, e quindi possiamo curarla senza l'aiuto del medico, oppure è meglio fare un salto dal dentista e farcela guardare bene. Allora, le comuni afte sono delle lesioni che sono sempre una o al massimo due o tre contemporaneamente, che vengono nella mucosa molle della bocca, prevalentemente nelle persone giovani, fino alla terza, quarta decade, che durano una settimana, massimo 10 giorni, e che guariscono senza cicatrice. Sono molto molto dolorose, sono lesioni rotondeggianti, ovali, al massimo un centimetro, col fondo biancastro, perché c'è una pseudomembrana e un alone arrossato. Cosa si fa? Perché sembra che nulla serva a spegnere quel dolore. C'è chi prova addirittura con degli intrugli. Sì, ci sono un sacco di rimedi popolari. Andando a leggere, c'è dall'applicazione di fette di cipolla, di sale o di fette di limone, all'allume piuttosto che alla mirra, piuttosto che a infusi vari, malva o salvia. Che in realtà hanno tutti lo scopo, questi metodi più o meno empirici, di disinfettare un pochino la lesione. Ecco, però quindi con grande dolore, perché usiamo disinfettanti che bruciano, perché il limone o il sale brucia. Sente, invece professore, quindi igiene scrupolosa con spazzolino e dentifricio, sciacqui, esatto, col colluttorio usando possono essere utili? Usando un dentifricio non irritante, possibilmente. Sì. Buona igiene orale, quindi, come ha detto giustamente lei, innanzitutto una buona igiene orale, meno microbi ci sono nella bocca, prima guariscono le afte. Eliminare, facendosi aiutare dal dentista naturalmente, sì, tutti i denti acuminati, fratturati, i restauri dentali rotti, perché dove c'è un trauma contro la mucosa è facile che si formi un'afta. Sì. Eliminare i cibi irritanti e piccanti e alcuni cibi particolari che sono implicati qualche volta nelle cause, che sono la frutta secca, il cioccolato. Sì. Usare dei gel preferibilmente perché stanno più localizzati sulla lesione, antibatterici, gel alla clorexidina. Usare dei gel protettivi, perché se noi prima di mangiare o di bere proteggiamo la lesione con un gel che la copre, fa meno male, perché il dolore forte è dato dal fatto che in quel punto lì si è distrutta la mucosa e quindi quello che mettiamo in bocca brucia. È come avere un'escoriazione sulla pelle e metterla. Ecco, professore, quindi ci sono dei rimedi, alcuni funzionano, soprattutto quello che funziona di più è l'igiene. Volevo dare però un'indicazione importante: la comparsa ripetuta di afte deve invitarci a consultare il medico, perché, professore? Esatto, specialmente se le lesioni sono molte, molto grosse, vengono molto frequentemente, perché possono essere non afte, ma lesioni legate a ipersensibilità a farmaci, lesioni legate anche ad alcune malattie intestinali, lesioni legate anche a condizioni infiammatorie generali o a carenze vitaminiche o a carenze di altri fattori. Professore, quindi speriamo che l'afta, dovendo scegliere, scelga lei che la sa trattare. Speriamo di no. Buona giornata, professore. Grazie a tutti. Arrivederci. Pronto soccorso. E noi torniamo a parlare delle nostre ginocchia. Ci danno un sacco di lavoro, professor D'Anchisa. Lei soprattutto, a me, da leggere tantissimi messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Ci scrive Marco: le mie ginocchia scrocchiano rumorosamente a qualsiasi mio piegamento. Sono da buttare. Quando si parla di ginocchio si parla sempre dello meglio conservarle, nel senso che gli scrosci sono molto frequenti e non hanno nessun significato se non danno dolore. Questa è una cosa che preoccupa moltissimo i pazienti, si flettono, sentono un rumore, questo capisco logicamente, crea un po' di ansia, ma devo dire che il rumore senza dolore bisogna far finta di niente, accettarlo. Andrea da Genova ci dà una descrizione di un sintomo un po' strano, ma professore magari lei riesce a interpretarlo. Il mio ginocchio talvolta pizzica quando sono appoggiato, anche se non gonfio, non dà altri problemi. Che fare? Ma il pizzica, può adesso essere un bisogna formicolio? Vedere cosa vuol dire. Probabilmente non è un problema articolare, ma è un problema cutaneo. Potrebbe avere avuto, per dire, qualche volta capita di avere delle contusioni. Siccome ci sono dei nervi che portano la sensibilità alla cute, ci possono essere delle micro lesioni nervose. Il nervo non guarisce perfettamente, guarisce con quelli che vengono chiamati neuromi, con una cicatrice, e questo può dare un fastidio che però è cutaneo. Ecco, un altro elemento importante mi viene in mente è che noi non dobbiamo pensare al ginocchio come all'articolazione, dobbiamo pensare al ginocchio come anche un insieme di fattori, muscolatura, tendini, che sono al di fuori dell'articolazione e che sono quelli che ci fanno flettere il ginocchio, sono quelli che ci fanno muovere in un certo modo. E quindi non sempre la patologia è da riferire all'articolazione, ma ci può essere anche qualcosa di periferico, di tendineo, di muscolare. Angelo ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie intanto per avermi richiamato. Grazie a lei, ci vogliamo occupare delle sue ginocchia. Siamo qua. Io siamo qua. Ho l'età di circa, fra poco, 63 anni. Un bambino. Soffro di psoriasi dall'età di 27. Sì. E mi accorgo che anche nel movimento del resto del corpo ho ogni tanto problemi, forse di forma artropatica. C'è che comunque da circa un anno le ginocchia a metà della rotula sul davanti mi fanno molto male, soprattutto quando mi siedo la sera a guardare la televisione. Devo tendere a coprirle con qualcosa per scaldarle, mi sembra quasi che si ghiaccino e ho anche difficoltà poi ad alzarmi. Certo. Devo dire che ho sempre fatto molto movimento, portato tantissimi pesi nella mia vita, perché consegnavo acqua minerale, quindi 40-60 kg per volta, certo, portati a busto. E sono sempre saltato giù dai camion, non ho mai fatto una discesa normale, faccio ancora le scale due alla volta. Però questo via da un po' di tempo questo grosso problema, non so se professore possa essere cartilagine. No, diciamo che lei ha due elementi negativi e un elemento positivo. I due elementi negativi sono che ha fatto tanto movimento e che ha la psoriasi. Il movimento ovviamente prolungato nel tempo e la psoriasi è una malattia della cute, che però può dare delle artropatie, dell'artrite, esatto. Quindi bisognerebbe fare un controllo radiografico come primo esame per vedere com'è la situazione. L'elemento positivo è che fa le scale 2-2, questo vuol dire che il problema non è così importante e dovrebbe non crearle dei problemi significativi nel futuro. E in linea con noi abbiamo un grandissimo atleta che le ginocchia l'ha fatte lavorare parecchio, è molto amato, ha un pubblico femminile che ancora lo ama, lo cerca, lo applaude, insomma strappa ancora, spezza ancora il cuore, soprattutto in Oriente. Beato lui. Ecco, è Zorro San. Buongiorno Andrea. Questi complimenti a quest'ora e a questa età fanno sempre piacere. Va bene. Che poi siano veri fin in fondo è da vedere, però è vero che il Giappone è anche il mio paese preferito, dopo l'Italia naturalmente. Perché ci sono tutte le giapponesi innamorate o per altre cose? Va al di là. Va al di là. Effettivamente è molto piacevole essere riconosciuto ogni tanto, però vi assicuro che il Giappone, che io frequento costantemente dal 89, quindi sono veramente molti molti anni, è un paese che amo moltissimo per la tradizione, per la cultura, per com'è, per come si mangia. È un paese in cui mi trovo a mio agio. Certo. Nonostante siano piccolini loro, per esempio. Guarda, sai che stavo pensando? Perché io quando vedo Andrea qua in redazione, ringrazio di avere almeno, non so, 6 centimetri di tacco, perché me lo vedo enorme, Andrea. 2,5 è una bella altezza. Un giorno vi racconterò un aneddoto troppo divertente in un onsen, che sono questi bagni sorgenti caldi del Giappone. No, dai, raccontamelo adesso, perché poi ci dimentichiamo, dai. Allora, un giorno andiamo in questa bellissima onsen a Nagano, all'aperto, insieme con un caro amico giornalista, ci infiliamo dentro e seguiamo la solita procedura, quindi lasciamo le scarpe fuori. Tra l'altro io ho 48, quindi ho occupato due cassette anche delle scarpe perché non ci stava. Entriamo, prendiamo il biglietto, ci infiliamo dentro lo spogliatoio maschile, facciamo il nostro bagno, tutto quanto. Il giorno dopo ci torno da solo, perché è talmente bello che volevo rifarlo. A quel punto, con aria un po' strafottente, dico: io il Giappone lo conosco bene, quindi lascio le mie scarpe, prendo il biglietto, mi infilo nel solito spogliatoio e vedo che la gente nella lobby dell'onsen mi guarda con occhi un po' spiritati. Io dico: sì, lo so che sono alto, però insomma mica posso farci niente. Apro la porta dello spogliatoio ed era lo spogliatoio delle donne, perché avevano invertito gli spogliatoi. Io non leggo il giapponese e ho capito che non era l'altezza a portare gli occhi sbigottiti delle persone, ma il fatto che io mi infilavo nello spogliatoio delle donne. Senti, dalle quali sono uscito urla e strepiti. Non ci sarà stata magari una tua ammiratrice che ha sostituito i cartelli uomo-donna? Magari è andata così. Senti, noi ti volevamo occupare un po' pensavamo un po' di occuparci delle tue ginocchia, di farci un po' i fatti tuoi, perché sicuramente la pallavolo sicuramente è tra gli sport più a rischio. Più a rischio, sì. nel cronico? Come trauma, sia come trauma ripetuto che come trauma acuto. Andrea? Sì, è più o meno così, è sempre stato un punto dolente per tutti, quindi borse del ghiaccio, lavoro di prevenzione con i pesi e quant'altro. C'è da dire che, essendo uno sport senza contatto fisico, almeno non ci si fa male ai legamenti. Il problema è quello che il tendine fa male, che la cartilagine si usura un pochettino, quindi è sempre stato per molti anni uno dei punti delle articolazioni più a rischio, anche se effettivamente si possono fare molte cose in prevenzione. E poi ricordiamolo, il salto è spesso sotto controllo, si salta molto in alto, si ricade, normali, ma non ci sono situazioni fuori equilibrio che a volte sono particolarmente pericolose. Mi scusi, devo leggere questo messaggio non firmato, ma per le ginocchia meglio essere alti come zorzi o bassi come topolino? Forse meglio bassi. Meglio bassi, per cui è più casca da meno alto. Senti Andrea, quindi ci sono comunque degli esercizi, e quindi anche per chi fa sport, che in qualche modo tutelano il ginocchio, anzi lo rendono più forte. C'è un'osservazione molto, molto, molto corretta, cioè io vedo tantissime lesioni legamentose da pallavolo, ma specialmente non nei professionisti. Cioè lui ha detto una cosa molto giusta: il salto è controllato, il legamento crociato anteriore si rompe frequentemente quando si salta e si atterra male. Io faccio sempre l'esempio: uno fa la schiacciata, non pensa come atterra, ma se ha fatto il punto o se non ha fatto il punto. Certo. E questo può comportare un non controllo dell'atterraggio, e questo può comportare una lesione del crociato anteriore. Il professionista è abituato quindi a controllare il salto, e quindi questo è un elemento importante. E l'altro discorso che faceva, e che condivido perfettamente, è il discorso di prevenzione, anche in, come rinforzo muscolare. Soprattutto, infatti questa è la differenza, nelle donne, nelle ragazze per esempio capita spesso che l'infortunio è a causa della poca forza, del poco controllo, quindi del movimento, e questo fa sì che l'articolazione subisca i danni maggiori, che non può essere protetta dalla parte muscolare. Quindi rinforzo. Rinforzo. Sì, sì, sì. Questo... Sì. Diciamo prevenzione, ecco, diciamo esatto. Prevenzione. Mentre l'elemento fondamentale, il fastidio più grosso è la sollecitazione importante e i microtraumi che possono dare dei danni cartilaginei. Senti Andrea, prima dei mercati, quindi anche così per le amiche giapponesi, ce ne saranno sicuramente all'ascolto, sulle ginocchia siamo tranquilli. Ma il guarda, vostro idolo è a posto. Per confermare la tesi, durante la mia carriera abbastanza lunga ho avuto due piccole meniscectomie. Cose abbastanza semplici, risolte in poco tempo. Poi ho smesso di giocare quando ero giovane, 33enne, per 7 anni non ho più toccato la palla, sono tornato a giocare con i miei amici master adesso, io ho 40. Alla prima partita ho fatto un goffo, molto goffo tuffo, sbattendo il ginocchio per terra, e mi sono rotto il crociato posteriore. Vedi, che non va operato. Che non va operato, in quanto mi hanno detto, perché sto poco da fare, però sbattendo forte il ginocchio per terra c'è stata questa traslocazione, immagino, e mi sono fatto male. Quindi anche lì la forma e la qualità muscolare sono ovviamente fondamentali per evitare o ridurre il numero di problemi e di infortuni. Insomma, questo ti rende, caro Zorro, sano un pochino più umano. Intanto ti abbraccio, spero di averti qua in studio per dedicare una puntata intera alla pallavolo insieme al nostro dottor Franco Confalonieri. Un bacio. Ben volentieri, considerate che ginocchia, anche e spalla sono i 3 punti cruciali nella pallavolo. Meno male, 3 puntate assicurate. Grazie ad Andrea Zorzi, buona giornata a te. Voilà, siamo tornati, anzi noi eravamo qua, che vi aspettavamo, 824 0024, in studio con me il professor Roberto D'Anchise, che si occupa, e noi questa è una bella garanzia del nostro ginocchio. Anche, Susi, vorrei tornare un attimo indietro, perché con lei abbiamo fatto tantissime puntate sul legamento, abbiamo spesso parlato del legamento crociato anteriore. Sì, certo. E il nostro Zorro-san invece è riuscito a rompersi quello posteriore, quindi è stato in un certo senso bravo, perché nella pallavolo è difficilissimo. Ecco, che cosa può essere successo? Volevo fare 2 osservazioni su quello che ha detto il nostro ospite. Allora, la prima è che lui è stato veramente sfortunato, nel senso che lui è cascato male, la tibia è stata spostata indietro dal colpo cadendo e si è rotto questo crociato posteriore, che è un legamento molto forte e che si rompe abbastanza raramente. Lui ha detto non si opera, è vero, se è isolato e se il danno non è importante non si opera, però come sempre la mancanza di un legamento comporta un cattivo funzionamento dell'articolazione, e questo ovviamente nel tempo può dare dei problemi, quindi in alcune situazioni si opera. Questo è un po' l'equivalente di quello che viene detto il danno da cruscotto, cioè quando si ha un tamponamento, per esempio, la tibia urta contro il cruscotto dell'automobile, viene spinta indietro e si rompe il crociato posteriore. Lui l'ha fatto cadendo. E l'altra, poi ha detto sul menisco. Lui ha molto minimizzato i suoi interventi sui menischi, però attenzione che il menisco è un elemento fondamentale nell'articolazione del ginocchio. Una volta molti anni fa si buttavano via come se fosse niente. Sì. Invece adesso ci si è resi conto, adesso da molti anni, che è fondamentale per il futuro, per il buon funzionamento del ginocchio, quindi anche portandone via una parte, il carico a livello dell'articolazione viene distribuito malamente e ci può essere nel tempo un'usura della cartilagine e quindi l'articolazione. Quindi se uno può, li tiene. O li ripara o li sostituisce. Andiamo a Elisa, che ci sta aspettando da un po', abita nella provincia di Treviso, mi hanno scritto. Buongiorno Elisa. Buongiorno, salve. Buongiorno. Io chiamo per mio marito. Bene. La moglie che lui... si preoccupa del marito, bellissimo. Grazie. Lui ha 54 anni e l'estate scorsa ha rotto il menisco. A fine mese dovrebbero operarsi, questa è la gamba sinistra. Se non che da 2-3 giorni si accorge che gli fa male anche la gamba destra, che non è gonfia. Che non è gonfia. Si lamenta il ginocchio destro. Il ginocchio destro. Sì, il ginocchio destro. Sì, sì. E non si accorge di nessun trauma. Sì, molte volte ci sono, quando si ha male a un ginocchio, si tende a caricare un po' di più sull'altro arto e quindi compare un dolore, diciamo così, da sovraccarico. L'unica osservazione che vorrei fare, adesso non per metterla in crisi, è che all'età di suo marito ci sono le cosiddette lesioni degenerative, cioè non da trauma. Qualche volta, poi magari bisogna operarlo per forza, vale la pena di aspettare un pochino perché possono guarire un po' per conto loro. È chiaro che se il dolore è importante e se il dolore ce l'ha da tanto tempo, è giusto operare. Insomma, non si lamenta di gamba buona, come si dice. Certo. Andiamo a Bologna. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Buongiorno. Io ho dovuto abbandonare il trekking perché dopo un po' di discesa mi fa male il ginocchio destro. Ma Silvia, ma sa che la discesa mette in grande difficoltà tantissimi ascoltatori che mi scrivono proprio questo suo problema. La discesa in montagna è certamente un sovraccarico molto importante e se, come dice l'ascoltatrice, fa trekking, quindi vuol dire che abitualmente fa queste passeggiate piuttosto importanti, la cartilagine dell'articolazione della rotula tende a consumarsi e, lavorando di più in discesa, ovviamente fa male. Quindi io direi di fare qualche accertamento per vedere com'è la situazione e l'accertamento principe, oltre alla radiografia e la risonanza magnetica, non la TAC, non accertamenti tipo ecografia, la risonanza magnetica e, come dicevo all'inizio, un controllo clinico e poi valutare se magari non ridurre un po' questo tipo di attività. Ha fatto qualcosa? Ha cambiato attività sportiva? E dove si è buttata, allora, Silvia? Io ho fatto una visita da un fisiatra che mi ha detto che la causa di tutto è il fatto che ho le gambe a X e mi ha consigliato di fare la bicicletta per rinforzare la muscolatura. Beh, ben maleducato però quel fisiatra con le gambe a X, non doveva dire così. Se ha detto, no? Gambe storte è male, se ha detto gambe a X se l'è cavata. Vabbè. Sì. Ginocchia valghe, sarebbe. Ginocchia valghe bisogna dire. E delle volte mi fa male anche andare in bicicletta, allora devo sapere se devo insistere con la bicicletta o se, allora, quando fa male meglio se mi fermo. A sentire, la mia regola è il ginocchio comanda, cioè tutto quello che fa male va evitato, perché il dolore vuol dire che in quel momento il ginocchio lavora male, quindi quello che le fa male lo eviti. Ok, grazie. Grazie a lei Silvia, buongiorno. Alfonso ci chiama da Salerno. Alfonso. Buongiorno. Buongiorno. Si lamentano le ginocchia, Alfonso? Ma di tanto in tanto mi fa un click continuo nel ginocchio sinistro, soprattutto quando gioco a calcio. Io corro solitamente 3 volte a settimana, gioco a calcetto una volta a settimana e di tanto in tanto gioco anche a calcio. Senta, ma se ne freghi del click. Nel ginocchio, senza dolore, voglio premettere, è solo quando gioco a calcio. Sì, l'abbiamo detto all'inizio, i rumori senza dolore non sono assolutamente importanti, non hanno nessun significato. Il suo ginocchio continui a giocare, ecco, come le sta dà facendo. Ritmo, le dà ritmo, perché mi sembra, Alfonso, che lei il ritmo ce l'abbia, tra abbastanza. Quindi Alfonso, bravo, continui così. Lasci fare il click al suo ginocchio. Buona giornata a Filippo. Grazie anche a lei. E poi abbiamo Filippo che ci chiama da Varese. Buongiorno Filippo. Buongiorno. Ho 38 anni e volevo parlare del un dolorino al ginocchio. che si manifesta quando, ad esempio, sto seduto e cerco di contrarre, avendo il piede appoggiato a terra, e cerco di simulare uno pseudo movimento, di contrarre la parte bassa della gamba senza fare alcun movimento, sento un dolore. Non so se definirlo all'interno, nella parte posteriore o nella parte anteriore del ginocchio, perché è un pochino difficile da individuare. Questo è l'unico momento in cui ha male? Sì, sì, e poi magari facendo altro, magari sa quando si vuole spostare un oggetto col piede lateralmente, ecco, è noto come se ci fosse un leggero movimento, un'eccessiva tolleranza. E basta. Allora, prima cosa cercherei di evitare di fare questi movimenti, ma no, adesso parte lo scherzo. Potrebbe esserci una piccola sofferenza del menisco, nel senso che quel movimento a cui fa riferimento lei, quindi spingere con la punta del piede qualche cosa che provoca un'extra rotazione della tibia, del piede, della gamba, questo può comportare una sollecitazione del menisco non necessariamente rotto, ma magari di consistenza inferiore. Se è poco importante, faccia finta di niente. Se le dà un pochino più di fastidio, faccia una risonanza magnetica. Dicevo faccia finta di niente perché qualche volta la risonanza fa vedere qualche cosa che in realtà non è significativo e poi viene voglia di fare di più, quindi bisogna giudicare sempre tutto con molto buon senso. E poi un'altra cosa, volevo dire che da qualche anno a questa parte le mie ginocchia sono diventate più sensibili al freddo, diciamo che poi magari la sera quando mi perché corico... non è più il tempo dei pantaloncini corti, Filippo. Ma grazie, infatti, buona giornata. Bene, arrivederci. Luisa dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno signora. Allora, io ho 42 anni e non faccio sport. Allora, avendo un bambino piccolo, circa 6 mesi fa, forse un po' di più, mi sono inginocchiata per mettergli il cappottino con il ginocchio destro. Probabilmente ho picchiato il ginocchio destro e adesso, allora, il ginocchio, premetto, non si è gonfiato e non ha dato strani segni. Ho solo sentito un dolore fortissimo proprio in punta del ginocchio quando mi sono piegata e mi sono appoggiata per terra. Da allora io non riesco più a stare in ginocchio con il ginocchio destro. E il suo bambino ha imparato a vestirsi da sola, vedi che ho dovuto usare il ginocchio sinistro. Beh, scusi, ha un dolore alla pressione quando si inginocchia e basta o anche altre situazioni? Solo alla pressione quando mi inginocchio, non riesco a stare in ginocchio solo sul ginocchio destro, quando ho tutte le due le ginocchia appoggiate. È un dolore superficiale o secondo lei è un dolore dell'articolazione? Perché come dicevo prima potrebbe essere anche un problema solo cutaneo, nel senso che lei può aver disturbato un piccolo nervo e questo può creare un problema alla pressione, quindi dovrebbe vedere se toccandolo, spingendo un po' con le dita, sente male, è un problema cutaneo. Se invece è un problema proprio alla pressione, vale la pena di fare qualche accertamento, potrebbe esserci una piccola sofferenza cartilaginea. Grazie, allora Luisa, grazie. Un saluto anche al suo bambino, gli dica di vestirsi da sola, non è mai troppo presto. Professor D'Anchise, voglio farle una domanda che mi suggerisce Marilena e che ci fa in qualche modo ricollegare al problema del legamento di cui abbiamo parlato con Zorrosan. A 44 anni si può ancora ricostruire un legamento crociato anteriore dopo 10 anni dall'incidente? Allora, certamente sì, ovviamente bisogna vedere se nel tempo questo ginocchio ha avuto delle problematiche, quindi se si è consumata, se c'è un'artrosi importante non vale la pena, ma se il ginocchio è in buone condizioni, oggi le tecniche di ricostruzione sono poco aggressive, il recupero è molto rapido e quindi si tende a operare anche persone non giovanissime con risultati molto brillanti. Abbiamo invece un suggerimento di un nostro ascoltatore riguardo alla nostra amica che diceva non posso più fare trekking perché andando in discesa o male. Potrebbe esserci una soluzione nel trekking. Qualcosa. Bisogna usare i bastoncini. Beh, certo. Così ho risolto il dolore in discesa. Beh, certo, perché riduce il sovraccarico, perché scarica parzialmente sui bastoncini. Però, ahimè, questo può essere utile più come prevenzione che come trattamento di una patologia, questo è logico. Allora andate di bastoncino, e perché noi nel frattempo andiamo a Roma, c'è Stefano che ci aspetta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io circa 15 giorni fa ho avuto un forte dolore al ginocchio sinistro. E praticamente senza motivo, perché tornavo a casa, insomma, non ho avuto traumi, non ho avuto niente. E il giorno dopo zoppicavo proprio vistosamente. Sì. Stefano, quanti anni ha, scusi? 34. 34. E ho preso un antinfiammatorio, il dolore è passato, però continuo a avere fastidio praticamente al ginocchio. L'ipotesi più ragionevole è una, come dicevo prima, parlando del paziente che aveva 54 anni, dopo i 30-35 anni ci possono essere delle lesioni da usura, è come una stoffa che progressivamente si usura, parliamo dei menischi, e questo evidentemente può avvenire anche senza nessunissimo trauma, anche senza ricordare che possa essere avvenuto qualche cosa. Quindi il mio consiglio è di fare una risonanza magnetica per controllare la situazione, ma come dicevo prima, attenzione, se la risonanza fa vedere un menisco rotto non è indispensabile fare l'intervento immediatamente, perché qualche volta le lesioni degenerative nel giro di qualche mese si risolvono da sole. Quindi attenzione, perché qualcuno magari potrebbe essere preso dal desiderio di accelerare la soluzione del problema, e più menisco togliamo e peggio è per la nostra articolazione. Che questo ha detto da uno che i menischi li opera, anzi lei è stato il primo a fare un'operazione particolare. Sì, un trapianto di menisco, sì. Un trapianto di menisco, me lo ricordo. E insomma, abbiamo i migliori. Andiamo di nuovo a Roma, perché c'è Silvana, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a lei, Silvana. Buongiorno, professor Banchini. Buongiorno a lei. Senta, io stavo ascoltando la sua trasmissione per quanto riguarda il ginocchio. Dunque, io le volevo dire, soltanto chiedere questa suo gentile intervento. Sì, mi dica. Io siccome ho 70 anni e vado molto a ballare. Vede, guardi, brava. Senta che voce a Silvana, 70 brava. Anni che balla. Grazie. Una ragazza. E non interpelli i medici allora. Continui a ballare. No, stia lontana, guardi, dai medici. Senta, professore, voglio dire anche questo. Siccome io cammino anche molto quando mi capita, senza problemi. Bene. Comunque, professore, guardi, io grazie a Dio ho soltanto alle anche, nella mocca che ho fatto, l'osteoporosi. Ecco. Io però vado sempre a ballare, grazie a Dio non è che ho dolori. Allora, lei deve, adesso stiamo cambiando argomento, ma comunque il consiglio che io le do è di fare appunto il controllo, magari parlando con uno specialista per quanto riguarda il problema dell'osteoporosi. Il fatto che lei abbia l'osteoporosi alla anca, c'è un minimissimo rischio di possibile rottura del femore, ma questo è molto ipotetico. Balli, che fa bene anche all'osso, perché più l'osso lavora migliora il tono del calcio e quindi la resistenza dell'osso, e interpelli qualcuno, perché con qualche farmaco probabilmente riesce a recuperare il problema dell'osteoporosi. Quindi stia in pista, Silvana. Non ho capito, scusi. Stia in pista. Balli. Senta, professore, un'altra cosa. Io ho preso osteo per 2 anni. Beh, guardi, deve essere un discorso da fare in maniera più globale con o col suo ginecologo, comunque con qualcuno che tratti un problema di osteoporosi. Quindi posso ballare, insomma, tranquillamente. Vada, guardi, peccato che il professor D'Anchise non balla, perché sennò... No, io ballo. Beh, insomma, dai. Ballo. Va bene, allora adesso finita la diretta, noi ci mettiamo un attimo qui e ci facciamo un giro di valzer. Cosa è capace lei? Tutto. Tutto? Sì. Le ginocchia sono a posto. Perfetto. Non è che poi sei rovina il professor D'Anchise. È il twist che rovina. È il twist che rovina le ginocchia. Ecco, allora teniamoci Attenzione. Lontano dal twist. Allora, invece, qui è arrivato in studio è una sorta di personal trainer di questa settimana, perché con lui riscopriamo il filosofo che sonnecchia dentro ciascuno di noi, e possiamo farlo, devo dire, perché siamo in ottime mani, perché è tornato a trovarci Armando Massarenti. Ciao Armando. Ciao. Tu di ginocchia invece sei a posto. A posto, sì. E poi qualunque piccolo disturbo lo prenderesti con un po' di filosofia. Con un po' di filosofia, certo. Sì, certo. Mi sembra che sia quello che si fa anche qui. Senti, Armando, tra l'altro tu in tutti questi 44 ritratti che descrivi nel tuo libro, Il filosofo tascabile, per una storia del pensiero in miniatura, riesci a prenderne uno con cui noi possiamo provare a confrontarci oggi? Ma sono 44, no, non farei fatica, però io vorrei dire una cosa più generale che attraversa tutti e 44 i ritratti in qualche modo. Io li ho scritti questi ritratti, ho scritto le loro vite come se uno dei centri focali della filosofia sia proprio la cura di sé. Cioè come curare se stessi attraverso il pensiero, la meditazione, quelli che gli antichi chiamavano gli esercizi spirituali. Allora, se da questo punto di vista bisogna partire proprio dai filosofi antichi, cioè parlare delle scuole antiche, gli epicurei, gli scettici. Qui, se vogliamo sceglierne uno, molto divertente, è Pirrone, non conosciutissimo. Qui si parla quasi sempre di filosofi molto noti, Socrate, Platone, Cartesio, Spinoza, fino a quelli contemporanei, Wittgenstein, si finisce con Wittgenstein. Però Pirrone, che poco no, ce ne sono alcuni invece belli, un po' stravaganti. Un po' le chicche, professor D'Anchise, lei lo conosceva Pirrone? Vagamente. Pirrone di Elea, tra l'altro i titoli di questi ritrattini sono anche abbastanza, spesso alludono a delle canzoni. Qui è La vita spericolata di Pirrone di Elea, ed è appunto una vita spericolata perché lui dubitava di tutto, di qualunque cosa, e quindi si lasciava mordere dai cani, si lasciava investire dalle bighe con i suoi allievi che magari erano un po' perplessi. Però spiega che c'era una certa saggezza anche in questo, e soprattutto però è interessante l'insegnamento generale dello scetticismo, cioè il sapere di non sapere, e non ridurre a dogma neppure questa affermazione, cioè sapere di non sapere, ma anche non escludere il fatto di sapere qualcosa. Ecco, se vogliamo è un esercizio così che può essere molto utile per la cura della nostra psiche, lo dicevamo già l'altro giorno, il pensiero critico in fondo è questo, sapere di non sapere, ma anche sapere che spesso sappiamo qualche cosa, sappiamo delle cose anche abbastanza sagge, e spesso possiamo trarle proprio dagli insegnamenti dei filosofi, senza trattarli con troppa reverenza. Io cerco di fare questo, insomma, li prendo anche un po' in giro, come prendo un po' in giro Pirrone. Pirrone però per oggi ci piace, professor D'Anchise. Oggi siamo un po' Pirrone. Però facciamo finta di sapere in questa occasione. Assolutamente, soprattutto cerchiamo, anche quando, a proposito di sapere, tante volte andiamo dal medico e vogliamo saperne più di lui. È meglio invece confrontarsi, non affidarsi ciecamente, ma è una valutazione critica. Una valutazione critica, brava. Direi, come insegna proprio anche e si legge nel libro di Armando Massarenti. Allora, io adesso sono pronta, posso iniziare a salutarvi, professor D'Anchise, quindi proprio tre secondi per dire segnali che ci devono far capire che il nostro ginocchio ha un problema serio. Allora, gonfiore e dolore, e attenzione a farsi operare. Attenzione, andate caute, dovete frequentare poco le sale operatorie, solo il momento proprio necessario. Grazie davvero al professor D'Anchise, ad Armando Massarenti, che torna domani, anch'io torno, domani dopo il GR delle 11 mi trovate qui ad aspettarvi, non mancate, mi raccomando. Essere e benessere.